Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Io penso che bisogna dialogare e parlare con il presidente della Kim Jong-un e sicuramente anche col presidente Trump. Io sono stato invitato il 21 di settembre dal 21 al 26 a delle manifestazioni lì a Pyongyang. Ho dato la mia disponibilità di rappresentare eventualmente l'Italia o addirittura gli Stati Uniti d'America per un messaggio di pace e di dialogo con Kim Jong-un. Sono a loro completamente a disposizione. Allora la storia ci dirà se siamo più stupidi noi che immaginiamo che Razzi possa andare a risolvere la crisi tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, o se è più stupido Razzi a pensare di poter avere un ruolo in questa che è la crisi geopolitica più importante di questi anni. Di sicuro per fare il mediatore in quella faccenda ci vorrà qualcuno che sia gradito anche al regime della Corea del Nord, e lui lo sarà. Lo è, senz'altro, perché, lo sapete, ha più volte detto che quello non è un regime, è uno dei paesi più sicuri al mondo, vi ricordate la Svizzera d'Oriente, eccetera, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, si può fare dalle 18 alle 20, siamo insieme, quindi cominciate a prenotare subito i vostri interventi. Abbiamo un altro Razzi da farvi sentire o no? Abbiamo esaurito il capitolo Razzi, ce l'abbiamo? Sì. In questi giorni non si parla altro che della Corea del Nord e sul nuovo missile che ha sorvolato persino il Giappone, 2800 km, senza che nessuno ha visto niente. Mi sembra una cosa incredibile, visto la nuova tecnologia di oggi che si controlla tutto, e come mai non c'è stato questo controllo di questo missile. Allora, la vicenda di Roma. La vicenda di Roma dopo Piazza Indipendenza è scoppiato un altro bubone al Tiburtino 3. È una vicenda tra l'altro piuttosto complicata. Lo sfondo è sempre quello delle tensioni legate alla presenza di migranti. Qua però ci sono due versioni. Quella del ragazzo eritreo, ve la faccio breve ma va raccontata prima di sentire gli audio. Ragazzo eritreo di 22 anni e del centro d'accoglienza della Croce Rossa, dove lui non era ospite. Però quello che hanno detto è che lui è un ragazzo tranquillo, senza precedenti, anche se un po' lo chiamano lo svitatello, se ne va in giro a piedi scalzi spesso e volentieri, incontra un gruppo di ragazzi, lo prendono in giro, lui reagisce, tira una sassata. Qua inizia l'altra versione: un bambino torna a casa, racconta alla mamma di questa cosa, lei parte infuriata perché uno straniero ha tirato un sasso addosso al figlio e va al centro d'accoglienza della Croce Rossa a scatenare un putiferio, una rappresaglia. Quello che poi succede di fatto è che c'è una notte di tensione e di violenze, il ragazzo si becca una coltellata lieve alla schiena e sentiamo le voci, questa è la donna che è andata sulle tracce dell'Eritreo. Lei, tra l'altro, bisogna dirlo, è un'altra scappata di casa con precedenti per droga e alcol. Ci hanno chiuso lì dentro, non ci vogliono far uscire. Questi sono i segni che mi hanno strusciato, perché poi sono riuscita dopo a scappare. Sono arrivate persone di qua, sono riuscita a scappare. Per riportarmi dentro mi hanno strusciato per terra. In quell'ora cosa ti hanno fatto? Mi hanno messo a terra, non mi facevano più muovere, non mi facevano uscire da là. Mi hanno fatto tutto ciò, come vedete, sulla schiena. Ho avuto tanta paura, ho avuto paura per il bambino, che gli potessero fare del male. Anche per me, ma soprattutto, ti ripeto, per il bambino di 12 anni che è indifeso. Intanto l'ex sindaco Alemanno dà ragione alla giunta, a Virginia Raggi, su come si sta comportando sulla vicenda degli sgomberi. Mi dispiace, ma questa volta non possiamo scaricargliela sulla Raggi. Ma no. La Raggi, il prestigio. Ti spiego perché. Perché la Raggi, come tutti i sindaci di Roma, sempre più nel corso del tempo, non ha risorse. E poi c'è il popolo della Lega riunito al Bergen Fest che ha scoperto Marco Minniti, il loro ministro. L'immigrazione può mettere a rischio la democrazia? Può essere, in un futuro, se non è controllata come è in questo momento, può essere che tra un po' di anni sia incontrollabile. Sì, sì, perché ovviamente verrà il giorno che formeranno un partito loro quando saranno in tanti, e questo forse sarà il momento che andremo a terra profondamente noi. Di questo passo, secondo me, potremmo arrivare anche a una guerra civile. Beh, l'immigrazione è sicuramente un problema per la democrazia. Gestita così è un danno per tutti. Sono d'accordo che il ministro Minniti è molto meno peggio del ex ministro Angelino Alfano. Beh, lo chiamano il ministro leghista in Parlamento. Potrebbe fare meglio, probabilmente è fermato anche da qualcuno, ma è comunque un buon ministro. Ma a te piacerebbe vedere Minniti un giorno al governo con la Lega? Se fa bene il suo lavoro, perché no? Lo sta facendo bene il suo lavoro? Fino adesso secondo me sì, potrebbe ancora migliorare, però... Potrebbe anche governare con Salvini? Perché no? Minniti, ministro della Lega, dopo Travaglio, dopo Milena Gabanelli, da tutt'altra sponda, arriva anche l'endorsement di Alessandra Mussolini. Minniti non è mica male, sì, certo. Facendo cose che forse dovevamo fare noi, non abbiamo fatto. Ma è un uomo di buon senso, destro o sinistro ormai diciamo è relativo. Una persona di buon senso capisce che ormai si è stanchi dell'illegalità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco noi Giorgia Meloni, buonasera, benvenuta. Salve, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora Meloni, dopo Piazza Indipendenza, ho detto prima, è scoppiato un altro bubbone a Roma, Tiburtino 3, un quartiere difficile da sempre, va detto, lo sfondo però è quello lì, cioè della tensione attorno alla presenza dei migranti. Il ministro Minniti ha parlato di democrazia a rischio su questa questione e credo che avesse in mente anche situazioni come quella esplosiva di Roma. Lei è arrivata terza alle ultime elezioni, avrebbe potuto esserci lei, no? Per un gioco del destino a Campidoglio. Come andrebbe come la gestirebbe lei? Come andrebbe gestita questa fase, questa difficile fase della città di Roma? Ma guardi, intanto il tema non è un tema che riguarda la capitale, il tema è un tema che riguarda la politica nazionale, prevalentemente le scelte di politica nazionale, di fronte alle quali i sindaci sono anche delle volte stati messi senza che potessero dire nulla, nel senso che al netto del fatto che negli ultimi anni in particolare sia Marino ma anche la Raggi in tutta la prima fase della sua sindacatura hanno sostenuto che Roma fosse una città che ancora poteva dare molto in termini di accoglienza, dimenticando o facendo finta di non vedere che la gran parte di quell'accoglienza veniva scaricata su territori già insomma abbastanza complessi, perché poi la cosa divertente è che la gran parte dei centri per l'accoglienza degli immigrati che sono stati istituiti a Roma in questi anni sono tutti nel municipio più povero di Roma, perché l'altra cosa interessante di questa accoglienza che ci è stata raccontata in questi anni da certa intelligenza radical chic è che bisogna essere accoglienti ma a casa degli altri, perché poi quando il centro per l'accoglienza degli immigrati hanno provato ad aprirlo a Capalbio nella residenza chic estiva della intelligenza, il sindaco del PD ha fatto le barricate dicendo ma insomma qui ci sono le case di valore, mi si svalutano se mi aprite il centro per l'accoglienza. Beh, non è stato l'unico a fare le barricate, no, perché ce ne sono parecchi, certo. Sindaci comunque. Però è vero, questo insomma, è vero. Capisce che vedere il sindaco del PD di Capalbio, insomma, dove vanno in vacanza tutti quelli che poi stanno tutto l'inverno in televisione a dirci che dobbiamo essere accoglienti, quando i centri per l'accoglienza degli immigrati stanno al Tiburtino Terzo a Tor Sapienza, insomma, fa abbastanza sorridere. Per cui c'è un tema di gestione della politica nazionale dei flussi migratori, sul quale mi consenta di dire che dopo che per anni siamo stati insultati, attacciati di xenofobia, di razzismo, di inumanità, perché chiedevamo una gestione dei flussi migratori che non poteva essere quella che abbiamo visto in questi anni, oggi arriva Minniti e ci racconta, come lei ricordava, che lui ha temuto per la tenuta democratica della nazione. Peccato che fino a, penso, un mese fa, Renzi, Gentiloni, lo stesso Minniti e tutto compagnia cantante, diciamo così, negassero addirittura la presenza di un'emergenza sbarchi. A noi hanno sempre detto che i numeri erano dei numeri perfettamente gestibili, tollerabili, che noi non potevamo fermare questa ondata. Poi oggi ci stanno dicendo che è diminuito il flusso, che vuol dire che si poteva fermare l'ondata anche prima e che semplicemente non si è voluto fare per incapacità e per furore ideologico. E quindi oggi, francamente, sono contenta ma anche un po' triste che quelle tesi che noi abbiamo sostenuto per anni, dal fatto che bisognasse appunto gestire, governare i flussi migratori, che bisognasse distinguere l'immigrazione clandestina dal tema dei profughi, perché sono due cose completamente diverse, che bisognasse ragionare di un accordo con i governi libici per l'apertura in Africa di hotspot per stabilire chi avesse diritto ad essere rifugiato, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che io prego a chi ci ascolta e fosse interessato alla tematica di risalire e andarseli a cercare su internet, ormai si trova tutto, sono cose che io vado dicendo da 3 anni e proprio mentre tutti quanti ti ridono in faccia. Sono contenta che a un certo punto ci siano arrivati anche loro. Ecco, meglio diciamo, tardi che mai, meglio, dal suo punto di vista meglio tardi che mai. Esattamente, assolutamente sì, infatti per carità, sì. l'ultima volta che è arrivato un atto in Parlamento, quando si trattava appunto dell'intervento in Libia, noi abbiamo diciamo, operato un voto di astensione con Fratelli d'Italia, perché diciamo, i contorni non erano abbastanza chiari, ma era un'astensione per dire non vogliamo votare contro, come incoraggiamento al governo, perché capiamo che insomma state facendo, voglio dire, una rivoluzione culturale al vostro interno. Meglio tardi che mai. È ovvio che se poi la politica nazionale è totalmente incapace di gestire un fenomeno e lo scarica sui sindaci, dicevo delle volte anche contro il loro parere, perché poi ne abbiamo viste le storie dei profughi o sedicenti tali portati di notte dalle prefetture senza che il sindaco fosse a corrente di quello che accade, perché ogni volta chiaramente la cittadinanza insomma prende questa cosa con malumore, e comprensibilmente anche per quello che ci siamo detti finora. È ovvio che poi i sindaci si sono ritrovati ad essere la prima fila. In questi anni Roma è stata anche governata da sindaci di manica molto larga, Marino, però, tutti, sì. La Raggi non è stata da meno, il Movimento 5 Stelle, fino a quando si è reso conto che sul tema degli immigrati ci poteva guadagnare qualche voto, ha votato tutti i provvedimenti del PD in materia e ha avuto una delle posizioni peggio di quelle del PD sulla accoglienza, che bisognava fare di più, che bisognava essere la stessa Raggi. Fino a 2 mesi fa ha detto che Roma doveva essere più accogliente. Ci siamo trovati in questa situazione. Io ne avevo fatto un perno della mia campagna elettorale, lo sgombero di Palazzo Curtatone e di tutti gli altri stabili occupati a Roma. Chiaramente per fare questo però è importante. Bisogna trovare delle soluzioni, però, Meloni, perché questo è il punto. No? Lo sgombero, qualcuno l'ha contestato, Medici Senza Frontiere, qualcuno a sinistra, però in gran parte diciamo un'occupazione abusiva viene ritenuta inaccettabile. Ma cosa bisogna fare, per esempio, di chi ha già avuto lo status di profugo in una città come Roma? No? Cioè lo sgomberiamo da Curtatone che facciamo? Niente, nel senso che anche questa mentalità o questa idea, mi dispiace ma sbagliata, per la quale esiste una qualche normativa al mondo che dica che se io ti riconosco lo status di rifugiato poi ti devo mantenere, è falsa, le rifaccio la domanda, cioè vale per il profugo ma vale anche per l'italiano senza casa che, come è successo altre volte, occupa abusivamente uno stabile perché non ha i mezzi, non ha casa. Poi si tratterà di vedere se uno riesce a dimostrarlo oppure allora, se vuole fare il furbo. Bisogna intervenire sull'emergenza abitativa, ma non per quelli che occupano prioritariamente. Anzi io penso che se tu occupi illegalmente uno stabile, se sei, ti ho dato lo status di profugo per come la vedo io, di fronte a un atto di illegalità, se tu stai scappando da dove vieni, io non ti devo mantenere, ti accolgo a casa mia, ti do la possibilità, secondo le norme internazionali, di trovare qui salvezza, non ti devo mantenere, non ti devo trovare una casa. Se tu quando arrivi a casa mia e io ti riconosco, diciamo così, ti aiuto, tu per tutta risposta delinqui, ti rispedisco a casa tua. Quindi lei avrebbe tolto, se fosse per lei, andrebbe tolto lo status di rifugiato a chiunque di fronte al fatto che gli ho dato lo status di rifugiato delinqua a casa mia in qualunque modo. Dopodiché se tu sei un rifugiato, però, scusi, non è un e controsenso. Sei una persona che se io... ha difficoltà mi faccia finire, sta parlando sì però mi faccia finire il ragionamento, perché altrimenti queste cose sono complesse e si rischia di non capirsi. se esattamente come se invece sei un rifugiato o un cittadino italiano che ha diritto ad avere una casa popolare perché ha ragioni ha situazioni di indigenza, le istituzioni devono lavorare, e su questo noi avevamo fatto tante proposte da sindaco, se vuole anche da candidato sindaco, se vuole gliela racconto anche sul tema dell'emergenza abitativa, per dare una risposta a tutti quelli che hanno diritto ad avere una casa popolare. Ma si devono tutti mettere in fila secondo i loro criteri, perché se invece io stabilisco il principio del Viminale, che è sgombero, e poiché ti sgombero da uno stabile occupato ti trovo un'altra sistemazione, lei capirà che non è normale. Questo è quello, dire, questo è quello che le diamo a quelli che delinquono. Quello, questo però Meloni è quello che stabilisce la legge italiana, lo ha ricordato Minniti, a proposito di Piazza Indipendenza, vale per i profughi ma vale anche per tutti, vale anche per gli italiani. Questo è il principio. Beh, non mi sembra, che è stato scusi, riconosciuto. Però, Minniti però, riconosce il principio ma poi non lo fa. Però scusi, Minniti, facciamo un passo in avanti, scusi Meloni. Ha trovato magicamente 600 stabili da destinare a chi occupa le case, che vuol dire che se ci sono 600 stabili che si potevano dare a chi ha diritto ad avere una casa popolare, si poteva fare prima, e per quelli che non hanno occupato, prima di quelli, prima di farlo per quelli che hanno occupato. Forse non sempre le soluzioni che si trovano per i profughi sono adeguate per chi fa domanda per una casa popolare, che magari vuole qualche cosa in più, ma sa perché glielo chiedo? No, non ho capito, perché... scusi, mi ripeta quello che ha detto, perché non ho capito. Ho detto che forse le soluzioni che si trovano, le caserme piuttosto che gli immobili del demanio abbandonati eccetera, per i profughi, non è detto che siano adatte alle persone che chiedono una casa popolare, che vogliono un livello di dignità, giustamente un pochino più elevato di quello che chiede magari il profugo. Ma forse guardi, anche per questo che quando, non sono le stesse, però scusi Meloni, mi faccia fare un'altra domanda, ma mi faccia rispondere. Però se potrebbe essere anche come dice lei, però le segnalo che Minniti oggi sta dicendo che questi 600 stabili sono stati individuati non solo per i profughi ma anche per gli italiani indigenti, che vuol dire che fanno bene, e se fanno bene oggi andavano bene anche prima, qualcosa non torna. Vabbè, qua siamo all'inizio dell'intervista, cioè meglio tardi che mai, sta cambiando forse qualcosa nella gestione anche al Viminale, non lo so. Però il punto che io le voglio domandare è questo: fatto lo sgombero di Piazza Indipendenza e spostato il problema altrove, perché il problema non è stato risolto, cioè se si facesse come dice lei forse sarebbe stato risolto, ma bisogna vedere se poi riesci, togli lo status di profugo, ok, li rispedisci a casa, ma se non riesci a fare questo, perché non riusciamo a espellere nemmeno gli irregolari, spesso e volentieri, come si fa? Non può chiederlo a me allora, però come non può chiederlo a me, perché per me vanno espulsi gli irregolari, vanno fatte rispettare le regole, per me se ti metti a tirare gli estintori contro la polizia te ne vai in galera, per me bisogna riconoscere che quello che accadeva a Palazzo Curtatone era una mafia delle occupazioni abusive, per cui oggi addirittura noi parliamo del delirio di dare in gestione a queste associazioni e alla mafia delle occupazioni abusive, perché lei mi spieghi altrimenti perché c'erano le ricevute dei pagamenti dentro a Palazzo Curtatone dell'affitto, ok? Quindi quella è una mafia, come purtroppo molte volte hanno molto spesso, ce l'abbiamo, non sempre, siamo presenti su questo, esatto, un po' di ironia, però le procure se ne sono occupate. Quindi si tratterebbe oggi, il paradosso dello Stato italiano è quello di dirci che lui vuole togliere i beni, vuole prendere i beni confiscati alla mafia e darli alla mafia delle occupazioni abusive. Scusi, non lo chiede a me come si risponde a questo, perché la politica che avrei fatto no, io glielo chiedo nella misura in cui appena effettuato lo sgombero è stato detto da politici, da tutti, da tanti anche della sua area, ok, lo sgombero è incontestabile, va bene così, però poi dopo due ore il problema si era spostato a fianco, e ancora a fianco, e ancora a fianco, quindi la domanda si può risolvere il problema fianco, solo così, fianco, con gli idranti. A fianco, le istituzioni si piegano a chi non rispetta le regole e tira gli estintori addosso alla polizia. E lei mi chiede se alla fine devo trovare una casa a questa gente perché occupava abusivamente e quando l'ho sgomberata si è messa a tirare gli estintori alla polizia e a fare danni. Io le dico no, non gli devo trovare una casa, devo trovare una casa a quegli italiani e a quegli stranieri regolari che hanno bisogno di una casa. Certo, perché non tutti tiravano, tiravano le bombole del gas, bisogna dire anche questo. Però tutti occupavano illegalmente. Quindi tutti delinquevano. Occupavano illegalmente, come fanno tutti quelli che sono senza una casa, italiani o stranieri. Che fanno un errore che io non posso difendere, le ripeto. Mentre vengo diciamo sul discorso che mi interessa, che è quello di dire, certo, le istituzioni possono fare una politica per affrontare l'emergenza abitativa in maniera completamente diversa? Sì, 100 volte sì. Come sta dimostrando anche il Viminale quando dice, come dicevamo prima, che adesso ci sarebbero 600 stabili disponibili a Roma, Milano e Napoli. perché se c'erano, c'erano anche prima, solo che l'Italia è una nazione nella quale ci si accorge dei problemi e delle emergenze solamente quando la gente scende in strada e tira gli estintori. Ma non è un buon modello di governo quello di dire: finché hai un problema ma rispetti le regole puoi morire sotto i ponti, però se mi occupi e poi mi tiri gli estintori ti trovo casa, perché è ovvio che tutti andranno a occupare e a tirare gli estintori alla polizia. Per cui sì, ci sono un sacco di cose che si possono fare, ci sono anche un sacco di cose che potrebbe fare il sindaco. Noi, ripeto, su questo avevamo fatto una serie di proposte molto serie sul censimento delle case popolari, perché poi qual è il paradosso? Che in realtà sia il Comune di Roma, per dire, io conosco bene la situazione romana, ma immagino che sia così insomma anche in altre parti, sia il Comune di Roma che la Regione Lazio, che curiosamente hanno ciascuna la propria quota di case popolari, altra cosa che non ha molto senso, sarebbe bene che lo facesse un ente solo, no? Avete tutte le case popolari che stanno nel Comune di Roma, in realtà hanno una serie di stabili inutilizzati o occupati abusivamente perché non riescono a fare il censimento. Pensi un po', non si riesce a fare il censimento Meloni, di quali siano le case popolari stata, a Roma. È stata brava perché mi ha fatto fare la metà delle domande che avrei voluto farle. Io adesso però devo dare la linea alla borsa, quindi ci risentiremo più avanti perché ne avrei di cose da chiedere. Grazie, buona serata. Vuole, buona serata. Allora, borsa, e poi torniamo a 800 24 00 24. Vi chiedo di commentare quello che ha detto Giorgia Meloni, naturalmente, ma anche tutto il resto. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, voterò Meloni o Salvini, grazie per l'intervista, al 349-238-6666. E poi c'è l'altra versione dei messaggi degli ascoltatori che dicono: lasciamo la Meloni fare il suo monologo xenofobo e razzista a senso unico. E dai, in effetti si è fatta delle domande e si è data anche delle risposte, però siccome il punto era sentire il suo punto di vista, lei lo ha fatto, non mi andava di interromperla e aprire una discussione che sarebbe stata comunque inutile e inascoltabile. Andiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24. Cominciamo con Gianluca che chiama da Lucca. Vai Gianluca. Sì, pronto? Pronto. Sì, sì, buonasera. Vai. Ho sentito prima dei radioascoltatori intervistati che dicevano che era un problema per la democrazia questa immigrazione. Sì, sono d'accordo anch'io. In futuro ci sarà un problema, vista l'arroganza con cui chiedono i diritti. Ho visto un'intervista l'altra sera di una ragazza lì che è stata sgomberata, voleva la casa, è un diritto. Ma io ho pagato 10 anni di mutuo, il 14% di interessi, capito? Io ho lavorato il sabato e la domenica, e la mia moglie, a me la casa non me l'ha regalata nessuno. Perché questi, se avessero questa arroganza qui che hanno in Italia, il suo paese, sarebbero una democrazia. Non li scapperebbero dalla guerra. Perché vengono qui? Tutta l'arroganza la sfogano in Italia. Ecco, io non capisco questo. C'è tanti esempi. Sono degli arroganti. Sono esattamente degli arroganti. Per cui in futuro ci sarà un problema per la democrazia. La penso così. Anche la Chiesa che accoglie. Però quando loro prenderanno il potere, ha visto cosa fanno delle chiese. Dopo voglio vedere la sua accoglienza. Cominciassero a aprire le curie e i palazzi che c'hanno loro. Ecco, io dico che se loro avessero tutta questa arroganza al suo paese, sarebbero cresciuti culturalmente e socialmente, invece che rimanere delle capre e scappare come conigli. Vabbè, Gianluca, va bene, punto di vista naturalmente. E ci può stare come punto di vista, è ovvio Gianluca, grazie. Vai con Marco da Roma. Sentiamo anche cosa ne pensano gli altri ascoltatori sul tema dell'arroganza dei migranti, dei profughi che chiedono diritti, dice Gianluca, senza dare sottinteso, niente in cambio, senza pretendere, senza con il modo non giusto, cioè l'arroganza, il tema dell'arroganza dei profughi. Gianluca, è ovvio che ti potrei dire che ci sono poi tantissime persone che non fanno così tra gli stranieri, vivono, lavorano tranquillamente, manco li vediamo in giro per strada, però ci sono anche quelle situazioni che dicevi tu. Marco, vai. Sì, buonasera. Buonasera. Ho sentito la Meloni sostenere che finalmente le sue tesi sono state accolte e anche dire andate su internet a vederle. Io ricordo bene che fino a pochissimi giorni fa la Meloni parlava di blocco navale. Il blocco navale per me non significa niente, o forse quello che significa è un intervento militare pesante. Mi sembra che quello che sta facendo adesso il governo non sia un blocco navale, sia aver allargato forse i confini italiani, e adesso la grande responsabilità sarebbe quella di occuparci di quello che succede ora in Libia. È un nostro dovere occuparci di questo. Cioè tu, Marco, se non ho capito male, stai dicendo Minniti avrà pure ottenuto un risultato che stava a cuore anche alla destra, alla Lega, cioè diminuire gli sbarchi, però in un modo diverso da quello che dicevano loro. Assolutamente diverso. Loro, la Meloni, Salvini, continuano a sostenere tesi che poi non hanno nessuna operatività. Quando anche lei le chiedeva una soluzione pratica su Piazza Indipendenza, la Meloni è arrivata al punto di dire questo non spetta a me dirlo. Ma che significa? Cioè, lei ha la responsabilità, o almeno secondo me dovrebbe avere la responsabilità, di fare delle proposte che hanno una loro concretezza, una loro realizzabilità. Invece così adesso ha fatto il suo piccolo show, piccolo grande show, però non è che ho sentito parole che avessero una soluzione, che proponessero una soluzione, né le pronunciava quando si parlava degli sbarchi, né è in grado di pronunciarle oggi di fronte a un problema che è questo delle occupazioni e delle case, che non è né bianco né nero, è un casino, ci sono dentro tantissime esigenze, tantissimi interessi, e questi politici che hanno necessità di ottenere un po' di consenso non hanno nessun interesse, voglia, non fanno nessuno sforzo per trovare delle soluzioni che non sono mai limpide, chiare, che fanno contenti tutti. Anche Minniti ora ha trovato una soluzione, ma allo stesso tempo si è aperto un altro problema che è enorme, perché quello che succede in Libia è una nostra responsabilità. Quello che succede ora alle persone è una responsabilità del governo italiano, quello che succede all'interno della Libia o in Niger o in Egitto. Io questo l'ho chiesto, lo chiedo da alcune sere. È una responsabilità anche del governo italiano, perché quello che succede ora è frutto di un'azione del governo italiano. Il governo italiano ha fatto un'azione efficace e questo ha provocato delle conseguenze in Libia. Quindi non possiamo dire che non è una nostra responsabilità perché non è territorio italiano. Cioè, non è che la botte è piena, la moglie embriaga. No, però bisogna vedere. Spero che la politica, una politica un po' più accorta, faccia con tutti gli strumenti che ha a disposizione tutto quello che serve perché questi campi di detenzione non siano dei campi di tortura. Cioè, il punto discriminante, secondo me, Marco, è dire responsabilità o no del governo italiano. Tutto si riduce a un punto. Minniti non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto perché altrimenti ci sono queste conseguenze in Libia. No, oppure, visto che quello che accade in Libia, fammi finire, scusa, sì, è una questione anche di carattere internazionale. Ci sono le agenzie come l'ONU, l'UNHCR, e allora questo è un altro paio di maniche. Minniti ha fatto quello che ha fatto per regolare i flussi, per ha fatto degli accordi con la Libia legittimamente, eccetera, è riuscito a diminuire in qualche modo gli sbarchi, e questo riguarda Minniti, ministro del governo italiano. Il tema dei profughi è un tema internazionale e non riguarda solo l'Italia. Questo è il punto discriminante. Assolutamente d'accordo. Però l'Italia è protagonista in questa cosa, anche in positivo. L'Italia in sede europea, all'ONU, ovunque, a voce in capitolo, porti questo tema che è di umanità. Va bene, cioè, va bene. Mi sembra una cosa di tutto buon senso e di dovere anche morale. Ok, grazie Marco, buona serata, grazie. Andiamo con Giuseppe, che chiama da Roma sempre, vai. Vai Giuseppe. Pronto? Sì, pronto. Niente, allora, buonasera. Io intanto volevo soltanto dire che bisogna avere le regole, bisogna rispettare le leggi, perché in Italia ci sono le leggi. Ha detto bene quel signore Gianluca che la casa lui l'ha pagata. Questi non sono diritti che si possono acquisire così. Non è possibile che a Piazza Indipendenza, dove io abito a Roma, vicino Piazza Indipendenza, ci siano dei bivacchi, ci siano delle persone che sono là da tanti giorni davanti a un consiglio nazionale della magistratura, poi oltretutto neanche a dire, dove adesso io che lavoro al centro e in bicicletta faccio Via dei Fori Imperiali, adesso sì, mi sono presi una parte di Via dei Fori Imperiali. Il problema è soltanto spostato, come detto, si è spostato da una parte all'altra, ma dove sono le regole, le leggi, dove sono? Stiamo soltanto facendo le chiacchiere, stiamo pistando il sale, come si suol dire. Questo è. Questo però è la domanda che io non sono riuscito a fare, cioè che ho fatto alla Meloni, alla quale lei poi sostanzialmente non ha risposto, perché ha detto se fosse per me il problema non esisterebbe. Però il problema adesso esiste e bisogna chiedersi quando si va a fare uno sgombero, cosa si fa? Si buttano fuori le persone e poi, punto di domanda, perché come dicevi giustamente tu, Giuseppe, le persone poi cosa fanno? Si spostano, non è che si evaporano, si spostano. Sono spostati in altre zone, io le vedo già da oggi, già sono tornato a casa Via dei Fori Imperiali in bicicletta e sono accampate lì. Si è soltanto spostato la zona, ma quella è come tante zone, ma siamo veramente la frutta, non ho più parole perché non so che cosa bisogna fare, perché qui è vero che bisogna è un discorso internazionale, è un discorso di tutti, però pare che solo l'Italia debba intraprendere questa cosa. L'Europa è muta, tutto il resto è muto, tutto questo altruismo che io lo vedo un pochettino aberrante. Perché è possibile che siamo tutti così altruisti da accettare questi immigrati, queste cose? Noi le case ce le siamo pagate, le case. Va bene, Giuseppe, grazie. Questo l'avevo già detto, grazie, buona serata. Traffico 800 24 00 24, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, è con noi Fabio Cenerini, capogruppo della lista Toti a La Spezia. Buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Allora, è lui l'autore della recensione su TripAdvisor di un ristorante a Cortina, di cui si è molto discusso, perché ha scritto un commento negativo dicendo, io leggo testualmente, non ho apprezzato che a servire con un costume ampezzano fosse una persona di colore. Apriti cielo, polemiche sul razzismo, TripAdvisor cancella poi la recensione, poi si è scoperto che era lei l'autore. Racconta intanto com'è andata quella situazione, come le è venuto in mente di scrivere quella recensione e perché? Ma guardi, mi è venuto in mente perché le faccio subito un esempio. Io ho sentito che la ragazza è stata molto dispiaciuta di questa cosa e me ne dispiace, perché io non volevo assolutamente si è messa a piangere. Ma questo mi dispiace, perché non volevo assolutamente colpire una persona che lavora. Sì. Ma le ribalto la cosa, io ho fatto un esempio che ho fatto ai giornali. Non andavo a un ristorante brasiliano a Sarzana perché c'erano a servire in maggior parte italiani, per cui è una cosa che poi credo che il presidente Giovanni Totti abbia definito la cosa in modo di fatto è una belinata, è stato una belinata. In Liguria si dice così, una belinata da parte sua, ma sì, scriverla sicuramente, sì. Però io ho detto solamente nessun intento di tipo razzista, assolutamente, però in un luogo tipico mi piacerebbe, io vado al ristorante marocchino e mi piace trovare l'arredamento marocchino e il personale che penso sia marocchino, poi magari io ci vado in Francia e sono francesi di terza generazione, però hanno l'aspetto, diciamo, nordafricano. Perché, ma questo no, esulava. Ma io infatti avevo letto, non sapevo della cosa del ristorante brasiliano dove c'erano camerieri italiani che lei sta citando a Sarzana. Però avevo letto che lei diceva, faceva questo esempio, no? E ho cercato di capire, è come se andassi in Marocco in un ristorante e trovassi un cameriere tedesco biondo. Allora io mi sono immaginato la scena, a parte sono anche stato in Marocco, e mi sono detto, che ci sarebbe di tanto straordinario? Cioè, ma non è il problema. Qua non è il problema di che ci sarebbe di male, che non vada bene o che qualcuno lo voglia dire. L'ha scritta lei la recensione detto. Negativa, certo, non è che l'ho scritta io. Certo, sì. Ma per l'amor di Dio. Però se vede da 1 a 3, come giudizio gli do 3 intanto sul servizio, perché c'è proprio un punteggio, da 1 a 3 gli do un punteggio medio, per cui non ho messo uno. Cioè si è voluto togliere lo sfizio di fare questa osservazione. No, ma non è su questo. Però... Io l'ho fatta su tutti sugli altri ristoranti che sono stata a Cortina, l'ho fatta sull'albergo e l'ho fatta quella sera lì su altri due ristoranti, uno a Recco mi sembra e uno non mi ricordo dove, per cui non è che ne ho fatta una per farla la ragazza lì che non sapevo neanche come si chiama e neanche conosco, per cui assolutamente, però dico in questo paese succedono delle cose di fatto gravissime e si sta a guardare il mio commento sulla pettorina che potrà essere, ma questo indubbiamente, come ha detto, una belinata al presidente Totti che potevo risparmiare nella scala dei problemi, lo mettiamo sicuramente in basso, però il punto resta, no? Cioè perché fare questo commento, cioè cosa c'è di strano se c'è una cameriera, glielo chiedo proprio sinceramente, perché o uno dice che ha un problema con le persone di colore, per esempio ma guardi, io frequento abitualmente ad esempio un ristorante a Fiaschino dove da 15 anni dove c'è un cameriere marocchino col quale sono in ottimi rapporti, sono amico e viene a bere con noi spesso e volentieri, per cui non è assolutamente così, era probabilmente, ho detto una stupidaggine mal interpretata, mi sono spiegato male io, era sul discorso della tipicità del luogo, mentre un ristorante sul mare a Lerici non è, io ho fatto anche l'esempio alla Spezia. Però dove vedrebbe bene allora una cameriera di colore? Ve lo spieghi, perché a questo punto questo, me lo do. Guardi, no, perché cioè, siccome si dice spesso, si dice spesso, non ci può essere accoglienza se non c'è integrazione. Qua abbiamo una ragazza che trova un lavoro, più integrazione di questo. Dall'altro punto di vista dell'integrazione è proprio quello che io sono stato la settimana scorsa a Bayreuth e ho notato in Germania. Cioè per fortuna è perfettamente integrata nel luogo, quello fra l'altro mi è piaciuto ma più molto integrata di così col costume ampezzano, questo, più integrata di così cosa dobbiamo lei fare? Lei ha perfettamente ragione, ma era proprio legato a un discorso diverso, le dico alla Spezia, noi abbiamo due o tre osterie tipiche che fanno la mestua spezzina e io sarò anche fatto male, ammazzatemi, mi piacerebbe trovare uno spezzino dei borghi più tipici di Spezia che mi parla in dialetto. Ma questo lo posso capire, però però se il titolare dell'osteria non trova lo spezzino e trova uno di Sarzana o di, io sono di Pisa, mettiamo di Pisa, siamo un po'. Che succede? Ma lei se è di Pisa, allora vede, io sono razzista verso il pisano, perché le dico, quel tipo di locale lì mi ha mandato proprio un esempio calzante. Sì. Lei preferirei che piuttosto di trovare lei pisano, ci trovo il e invece se vengo a Ma a me mi sta benissimo che lei preferisca trovare. Mi piace sentire. Ma va benissimo, io capisco che lei preferisca trovare uno spezzino, ma la domanda Cenerini è un'altra. Se il titolare dell'osteria non trova uno spezzino a disposizione, perché parliamoci chiaramente, nei ristoranti sono moltissimi gli stranieri che ci lavorano, ma no? Perché è un lavoro faticoso, dire, ora si io non dico molto. Quel caso lì ovviamente. Sì. Io le posso dire che molto spesso sono anche sfruttati e sottopagati, perché guardi, io come ha detto lei faccio politica. Da un ufficio dove ricevo la gente un po' alla vecchia maniera e le posso garantire che ci sono degli italiani che sono disposti a fare qualsiasi lavoro in questo momento. Forse 4-5 anni fa c'era il rifiuto degli italiani di fare certi lavori, oggi ci sono degli italiani che sono veramente disperati. E questo ma glielo non posso lo metto garantire. In dubbio, no? Però è altrettanto vero per esperienza diretta che nelle cucine dei ristoranti spesso ci sono molti stranieri che lavorano e lavorare in cucina non voglio fare 2+2, ma è un lavoro pesante. Ora se preferiscano gli stranieri ragione. Per una questione razzista al contrario, non lo so, non mi risulta. Io le dico che molto spesso, come nell'ambito dell'edilizia, cioè purtroppo c'è stata nell'edilizia, ad esempio alla Spezia, ma in altre zone dove sono entrati, mi ricordo gli albanesi anni fa, hanno abbassato i prezzi all'inverosimile, rendendo di fatto molto spesso facendo fallire tante aziende italiane, questo è un dato di fatto. Allora bisognerebbe fare le regole uguali per tutti, tu fai l'imprenditore, rispetti tutti i canoni che deve rispettare. Io so, ma ora non è che posso dargliele nelle prove in questo momento, che molto spesso il personale extracomunitario viene sfruttato e sottopagato nei ristoranti. Però allora, personale allora, più qualificato italiano magari. Allora lei, che è un politico, avrebbe potuto scrivere una recensione dicendo: chissà se quella povera ragazza è sottopagata, invece di fare un commento sul colore della pelle e il costume apprezzato. No, in base a quello che ha detto lei, come ha detto il presidente Totti, è stata una bellinata. Mi piace molto questo commento di rilassatezza. No, va bene, le ci sta, la bellinata ci sta sempre. No, senti, che non andavo al brasiliano perché c'era personale italiano, allora sono razzista verso soprattutto gli non c'erano le brasiliane, magari, che quello potrebbe e non anche disturbare. Questo potrebbe disturbare. Però ragione. Sono, vado sempre a Chiavari, che ci sono tutti i brasiliani, però vista la sua battuta non sono neanche particolarmente bellissime, per cui vabbè, allora, le vuole anche belle. Come non capirla? Senta Cenerini, però allora a conclusione di tutta questa discussione e di questa belinata, possiamo chiedere lei potrebbe chiedere scusa a questa ragazza? Io, guarda, più che chiedere scusa, io posso dire che mi dispiace molto se se l'è presa, che non era la mia intenzione, anzi le ho detto era solo una cosa, però lei ha detto, però lei ha detto su un contesto di che ricordo 40 anni fa, che io ci vado da una vita. No, vabbè, ma ce la spiega. Però adesso ha ammesso che è una belinata, in effetti le è scappata un po' così, lei ci è rimasta male, le può chiedere scusa. Il mio ruolo, sì. Le dico che mi dispiace più di quello, penso. Io credo che uno chiede scusa quando uno sbaglio, quando lo fai in malafede. Io non lo faccio. Ma anche se uno sbaglia senza malafede, io ti pesto un piede senza malafede, dico: oh, scusa, mi dispiace, ho fatto una cazzata. Le dica pure che è una cosa che mi dispiace molto che ci sia rimasta male, quello sicuramente. Poi le ripeto. Ma non le vuol chiedere scusa, non le vuol chiedere scusa. Mantiene il punto. Cioè, è una belinata, ma non le vuol chiedere scusa. Cosa ci sarebbe di male a chiederle scusa per una belinata? Non c'è nulla di male a chiedere scusa, però se una persona ti dice: mi dispiace molto che ci sia rimasta male, questo sicuramente è una ragazza che lavora, che si vuol dar da fare, fossero tutti così quelli che vengono in Italia, ammesso che ci sia lo spazio per tutti quelli che vengono. Allora, giriamola così, non lo rifarebbe? Ma no, non lo rifarei, perché non ha sollevato un polverone. Io vedo, ho visto qualche giorno fa che è stato rimesso in libertà un pakistano che dicono abbia violentato un tredicenne disabile, e tra un po' ha sollevato lo stesso polverone del mio commento. No, guardi, assolutamente no. L'abbiamo presa in leggerezza, assolutamente, quindi per quanto riguarda me no. La ringrazio Cenerini, buona serata, grazie. Molto gentile, buonasera. Grazie, a presto. Allora, andiamo con Carlo che chiama da Roma. Vai, Carlo. Buonasera, allora sì. A me è capitato di andare in una trattoria romana in semiperiferia, quindi trattoria romana, tutto l'arredo trattoria, poi trovo il cuoco del Bangladesh, la cameriera rumena, a quel punto lì mi sono alzato e sono andato via. Perché? Perché non è che si mangia solo il cibo, ma anche tutto quello che gira intorno al cibo, quindi le persone, l'arredo e così via. Se invece vado in una tavola calda, mi va bene tutto, cioè praticamente il cameriere che viene dalla Luna, il cuoco che viene da Marte, mi va bene tutto. Ma beh, se certo, io vado in un però scusi, qua è diverso, perché se uno entra in una trattoria romana e trova solo che non romani, posso capirlo, però qui è una cosa diversa, qua c'era una cameriera in un ristorante di colore e questo ha dato fastidio, infatti poi il Cenerini ha detto è stata una cazzata, che è detto in Ligure è una belinata, quindi è diverso il caso. Ma secondo me è mal posto il problema, è mal posto, perché se io vado a... Cioè non so la trattoria dove è stato lei, che trattoria sì, è? Ma questa è una trattoria che sta in zona San Giovanni, sì. D'accordo, trattoria romana, c'è scritto proprio fuori, sì. Io mi aspetto di trovare un ambiente da trattoria romana. Adesso, dicevo, se io vado in una tavola calda alla stazione Termini, mi va bene tutto, non ho problemi di qualsiasi cosa. Se io vado a Cortina, voglio un ambiente ampezzano. A me, la signora o signorina di colore, io... Per l'amor di Dio, però... Devo chiudere, non va bene. A Cortina non va bene. Grazie, buona serata. 800 24 0024, torniamo dopo il GR. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Dal 4 settembre vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 6.30, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Chiarissimo cosa sta succedendo. Minniti, l'Italia, l'Europa pagano la Guardia Libica per tenersi i migranti in condizioni di violenza inaudita e disumana. Sono d'accordo che il ministro Minniti è molto meno peggio dell'ex ministro Angelino Alfano. Beh, lo chiamano il ministro leghista in Parlamento. Potrebbe fare meglio, probabilmente è fermato anche da qualcuno, ma è comunque un buon ministro. Quindi non è mica male, certo. Sta facendo cose che forse dovevamo fare noi, non abbiamo fatto. Ma è un uomo di buon senso, destro o sinistro ormai diciamo è relativo. Una persona di buon senso capisce che ormai si è stanchi dell'illegalità. Voci sul ministro Marco Minniti. Avete sentito i militanti della Lega dal Bergenfest, è un ministro leghista, e ancora Alessandra Mussolini, Minniti non è male, non è male. Giorgia Meloni, intervistata da noi un'ora fa circa, ha detto meglio tardi che mai, sta facendo le cose che volevamo fare noi. E rimangono solo le critiche della sinistra, avete sentito Beppe Civati che invece ce l'ha con Minniti, perché paga la Guardia Libica, paga gli scafisti per tenere lontani i migranti dall'Italia. 800 24 00 24, andiamo con chi andiamo? Con Roberto, anzi no, abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo? Vai. Allora diamo il benvenuto ad Antonio Caprarica, benvenuto. Grazie, ben buonasera. Allora Caprarica, intanto voglio dare questa piccola notizia sulla questione del prosecco, perché abbiamo trovato un vendicatore del prosecco, lo chef, glielo dico anche a lei, Tino Vettorello, che ha un ristorante stellato a Conegliano, ma adesso gestisce il ristorante al Festival del Cinema di Venezia, e ha promesso una bottiglia di prosecco ad ogni inglese che andrà lì col passaporto. Ho paura che non gliene resterà nemmeno una, ecco, anzi non ecco. Ne avrà sufficiente, perché va in bolletta, rischia di andare in bolletta, perché, ma certo, perché? Ma perché gli inglesi sono assolutamente pazzi per il prosecco, è il primo mercato signori del prosecco, la Gran Bretagna, noi vendiamo quasi assolutamente tantissimo. Ed è cresciuto del 12% nei primi mesi di quest'anno, cioè è un booming il prosecco. Ma come, cioè, chiaramente è facile dire, no? Ma come nel paese dove si mangiano i surgelati, birra, whisky, eccetera, arriva questo attacco perché il prosecco rovina i denti, no? Ma come si spiega, lei che conosce l'Inghilterra meglio degli inglesi? Sono piuttosto sorpreso, perché sul fatto che gli inglesi siano innamorati del prosecco non ci piove, no? A tal punto che quel genio di Boris Johnson, diciamo, adeguato ministro degli esteri del paese che ha votato Brexit, sì, purtroppo diciamo un paio di secoli fa c'era Gladstone e Palmerston, ma purtroppo anche l'Inghilterra è in declino e siamo arrivati a Boris Johnson, ma lui ebbe a dire, ma certo, o mantenete le condizioni di favore per doganali, se no che fine farà il vostro prosecco, non esporterete più nel nostro paese. Quindi ben consapevole lui, per primo peraltro amico della bottiglia, che il prosecco è un bene che non si tocca. A Boris Johnson è amico della bottiglia? Molto amico? Adesso per carità non vorrei apparire, cioè, è un signore che rende onore alla bottiglia, così va meglio. Certo. E peraltro devo dire, insomma, apprezziamo questa, no, questa devozione soprattutto al prosecco. Insomma, adesso onestamente, che il Guardian e il Mail, che per sì dare l'idea sarebbe come se diciamo il giornale e il Fatto Quotidiano, perché questa è la loro posizione nello spettro politico. Quale dei due? Il Guardian sarebbe? Il Guardian e il Fatto. Il Guardian e il Fatto Quotidiano, mentre il Mail diciamo si identificherebbe con il giornale. Sì. Ora, che si trovino alleati in questa crociata odontoiatrica contro il prosecco. Cioè divisi su tutto e alleati solo contro il prosecco. È assolutamente incredibile, insomma, e veramente mi viene però, in mente che tutti e due hanno bisogno di forti finanziamenti. Ah, oppure di bersi un prosecco. Perché qualcuno dice, per farsela passare, che dietro c'è la lobby della birra. Possibile? È un concorrente del prosecco la birra? Ma certamente la birra e il vino rosé. Quindi da questo punto di vista questo è vero, questo è verissimo. Cioè hanno soppiantato nei pub, soprattutto nelle preferenze delle signore, la vecchia famosa pinta di birra. Cioè un bel bicchiere di prosecco, un calice di prosecco o un bicchiere di rosé fa più fino e soprattutto alle donne piace di più. Quindi devo dire che da questo punto di vista stiamo parlando proprio di un mercato tipicamente femminile. Ma guardate che le signore bevono tantissimo in UK, quindi diciamo un mercato molto importante. Adesso non voglio per carità mettere in dubbio l'onestà professionale dei colleghi di questi due autorevoli giornali, dico solo che è singolare. Sarà interessante capire anche se in effetti gli inglesi si lasceranno in qualche modo scalfire da questa critica sul fatto che il prosecco c'è troppo zucchero e rovina i denti. Gli inglesi, un popolo che non si fa scrupoli in altri casi di mangiare tranquillamente schifezze, detto anche in senso così bonario, surgelati, sì, e insomma di bere, di alzare il gomito dal venerdì alla domenica senza limiti. Queste critiche potranno scalfire il mercato? Mi sembra di capire, Caprari, dal suo punto di vista è no, cioè assolutamente. Allora, la mia risposta è categoricamente no. Non c'è nessuna campagna. Senta, gli inglesi bevevano nel 600 10 volte il gin che bevono nel 900, che hanno bevuto nel 900. Beh, campavano fino a 35 anni magari, questo esatto, bisogna anche dirlo. No, ma è proprio così, campavano fino a 35 anni. Infatti il gin era una delle principali cause di morte. Tuttavia ci furono legislazioni proibizioniste severissime. E sa come risposero gli inglesi? Con una insurrezione che costrinse il Parlamento a cambiare legge su gin. Quindi se vogliono bere, bevono, e non sarà certo la campagna odontoiatrica di questi due simpatici quotidiani e dei colleghi che li fanno ogni giorno a far cambiare loro idea. Comunque, no, sono tranquillo, mi sentirei tranquillo. Diceva Caprarica, no, che il prosecco è molto amato anche dalle signore, no? Che qual è l'immagine di questo vino, di questo prosecco in Inghilterra? A cosa si associa, no? A che tipo di situazioni? Direi gentilezza, allegria e seduttività. Ecco. Beh, niente male. No, non male, giuro che non me l'ero preparato, mi è venuto spontaneo, ma è proprio così. È venuta così. Se poi i produttori di prosecco vogliono usarla per fare pubblicità, devono chiedermi le royalties. Va bene, senta, abbiamo una notizia fresca che riguarda Theresa May, che ha deciso di ricandidarsi, l'ha annunciato o ha detto che è disponibile o qualcosa del genere. Sì, ha detto che è disponibile, bisogna vedere se è disposto il suo partito e soprattutto se sono disposti gli inglesi a votarli. A giudicare dal voto del giugno 17 non mi pare un candidato molto forte, diciamo. Theresa May sta disperatamente cercando di convincere i conservatori che lei non è una dead woman walking, una condannata a morte in attesa di essere giustiziata. Però, insomma, ma è un po' difficile, francamente, che possa riuscire a far cambiare la loro opinione. Senta, è anche vero che le alternative sono terrificanti. E quali sono le alternative sul campo? Beh, ad esempio Boris Johnson. Lo stesso Boris Johnson? Esatto, poi c'è naturalmente Michael Gove, David Davis, che è il ministro per la Brexit, quello incaricato teoricamente di condurre i negoziati, non sa manco da dove cominciare. Insomma, devo dire, purtroppo la qualità della classe politica inglese al momento è in linea con quello del resto dei grandi paesi democratici occidentali. Senta, oggi sono ovviamente 20 anni esatti dalla morte di Lady Diana e si è scritto tantissimo, detto, lei pure è uscito con l'ultima estate di Diana, ma c'è un personaggio, qualcuno che è pronto per, come dire, raccogliere l'eredità, non dico oscurare la figura di Lady Di, ma insomma di prendere in qualche modo il testimone all'interno della famiglia reale, Harry, William e Colin. Il testimone è già passato a una signora che si chiama Kate Middleton, adesso nota come duchessa di Cambridge. È già passato in termini, come dire, di intelligenza politica, di analisi della situazione, di visione anche strategica. Insomma, una volta che la regina non ci sarà più, il vero pivot della famiglia reale sarà questa signora che esce da una modesta famiglia borghese, Kate Middleton. E quindi naturalmente ripercorre un po' le orme anche da questo punto di vista, sì, come origini. Beh no, perché le origini italiane erano molto ma molto aristocratiche, molto aristocratiche, perfino più aristocratiche di quelle di Filippo d'Edimburgo. No, il punto è che certamente Keith ha lo stesso, come dire, programma politico, tra virgolette, di Diana, cioè una monarchia più svelta, più moderna, meno gabbia dorata e tutta questa bella roba qui, e però naturalmente il fascino di Diana era un'altra storia, perché lei appartiene a una fase diversa della monarchia, quando la monarchia era una fiaba, e anche questo è il problema vero. Oggi non lo è più? Eh beh, ma è possibile modernizzare la monarchia e mantenerne il carattere fiabesco? Beh, insomma, questo è un bel dilemma. O uno o l'altro. Direi, e quindi Diana aveva dalla sua non solo un fascino assolutamente incomparabile, non vedo onestamente al giorno d'oggi altre belle signore così seduttive, irresistibilmente seduttive, ma soprattutto, ripeto, poi era entrata di diritto nel mito anche grazie all'appartenenza alla favola reale. Va bene, grazie Caprarica, buona serata, grazie. Buona serata anche a voi. Allora, andiamo con gli ascoltatori, Emanuele che ci chiama da Roma, vai. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, intervengo per dire, diciamo, di darti ragione perché in effetti lavorare nei ristoranti è molto pesante. Io faccio questo mestiere da 26 anni. Cosa diciamo fai? Che io sono un addetto mensa, cioè lavoro dove i bambini mangiano a scuola. E noi nei mesi estivi purtroppo non lavoriamo perché veniamo messi in sospensione e non abbiamo diritto. Senza stipendio? Senza stipendio, non abbiamo neanche. Ma cos'è una cooperativa? Che tipo di contratto è? Io lavoro per una grande dritta, un SPA, è soltanto che noi i 3 mesi estivi non lavoriamo perché non ci sono i lavori sufficienti per tutti quanti. Infatti ho scritto anche a Poletti, il ministro Poletti, per aiutare la categoria, quantomeno un aiuto durante l'estate. Comunque io ho cercato lavoro nella ristorazione, ho chiesto di poter lavare i piatti perché io faccio questo mestiere tantissimi anni e mi hanno risposto se sapevo la lingua Bangladesh. Io sinceramente francese e inglese a livello scolastico ci posso arrivare. Ma il Bangladesh no. Ma scusa, no, stai dicendo seriamente, dove ti hanno chiesto questo? Ora non posso dire il ristorante, ma sono rimasto veramente a parte. Vabbè, ma perché lavapiatti? Perché tra lavapiatti bisogna intendersi e loro sono tutti del Bangladesh. Ma sostanzialmente possiamo parlare inglese, sostanzialmente. Poi cioè, ognuno si deve adattare, magari però comunque chiedo di lavare i piatti. Poi mandarsi a quel paese è facile. Però insomma, questo è quanto. 45 anni e già sono fuori dal mondo del lavoro perché cercano. Purtroppo, vabbè, non è vero che nella ristorazione ci siamo in tanti, specialmente quelli degli addetti mensa che si ritrovano senza lavoro l'estate. E purtroppo questa è la situazione abbastanza grave, perché io ho 45 anni, ho 3 mesi che non trovo lavoro. E ricomincerai a settembre però? Sì, fortunatamente, però per 3 mesi io devo continuare a pagare bollette, affitto, io ho la fortuna. Cioè, scusa, tutti gli addetti alle mense scolastiche lavorano fino a giugno, poi luglio, agosto e metà di settembre stanno a casa, senza stipendio. Chi ha la fortuna di avere un posto nelle mense aziendali, ma non tutti. Siamo talmente tanti che non tutti hanno questa possibilità e quindi a volte può essere la ruota gira, può essere che un anno lavori, può essere che l'anno seguente non lavori. Grazie. Ciao Emanuele, ciao. Roberto da Modena. Sì, buonasera a tutti, volevo soltanto rimettere un attimo l'attenzione su quello che diceva la Meloni. Sì. Tecnicamente nel 2006, quando sono state fatte le prime scelte di ospitare i primi rifugiati, eccetera, eccetera, non sono state prese in considerazione molte cose, come è tuttora la vita normale del paese. Non vengono prese in considerazione quando devono entrare, che cosa devono fare, come devono essere dislocati, quali sono i compiti che devono essere assegnati. No, vengono presi, vengono portati in Italia, perché poi questo si è scoperto, che le ONG li hanno portati. Roberto, però diciamo che arrivano, poi c'è la questione delle ONG più recente, che è stata discussa, e c'è il codice Minniti che ha impedito alcune ONG di fare quello che dici tu, però non è che arrivavano e arrivano, sì. Sì, tuttora, chiaro, però con tantissimo ritardo si mette mano a una situazione dove adesso, in questo momento, il popolo italiano è comunque moralmente colpito, anche economicamente, perché comunque andiamo a togliere delle tasse che potrebbero essere reinvestite sul paese per poter vivere meglio, perché c'è gente che, ripeto, guadagna 900 euro, 1000 euro e non sa come fare e anzi si sta privando di tutti i beni normali che uno dovrebbe vivere, invece si sta privando perché tecnicamente non può portare a casa uno stipendio maggiore. Quindi tecnicamente che cosa diciamo in questo momento? Secondo me va valutata questa cosa qui. Il fatto che al Copasir, io adesso conosco bene la situazione, il presidente del Copasir, sappiamo tutti che è un leghista e ha davvero mano a tutto quello che potrebbe essere i servizi segreti, quindi conosce benissimo quelle che ci sono le realtà, perché non posso credere, ma proprio assolutamente. E quindi cosa può fare il Copasir? No, ripeto, quando si fa della demagogia che si dice al ladro, però poi tu lo sai benissimo che c'è la possibilità che tu puoi fermare queste cose dicendole prime. No, deve arrivare un politico qualunquista, perché così è considerato, e ti dice che le cose che stanno accadendo sono in realtà un po' manovrate da queste ONG. Insomma, noi stiamo pagando adesso uno scotto che tecnicamente non lo dovremmo pagare, perché ci sono degli accordi che non competono agli italiani e non competono neanche quasi alla politica, ma che sono stati presi da pochi uomini per poter essere in questo momento storico, in questa situazione. Cioè il complotto. Quindi, dell'invasione, questo stai dicendo? Tecnicamente non è un complotto. Tecnicamente, cioè, tecnicamente Roberto, continua a dire tecnicamente, ma è questo il concetto. Il tuo concetto è che sopra le nostre teste si muove una rete che vuol favorire questa immigrazione in Europa. A quanto pare sì, perché poi che cosa succede? Va bene, hai chiarito il concetto, però adesso devo dare la linea alla borsa. Grazie Roberto, a dopo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, riprendiamo con Agostino che chiama da Milano. Benvenuto Agostino, vai. Sì, buonasera. Intervenivo brevemente un commento sulla questione degli immigrati che sono stati sfollati a Roma. In particolare sì. C'era un signore che è intervenuto prima che ha attribuito anche degli appellativi a questi signori abbastanza pesanti, capre, arroganti. Sì. E questo signore parlava, diceva, ma questi vogliono la casa. Io invece il tema dell'arroganza, il no? Diceva che questi hanno sì. Vogliono, pretendono, che è un po' quello che diceva anche la Meloni, sì. Tirano le bombole del gas, non tutti, bisogna dire la verità. Qualcuno fa anche quello, magari sono gesti estremi di gente disperata, però c'è questo tema dell'arroganza, qualcuno dice. Vabbè, dell'arroganza questo... perché vogliono la casa. Io sì. Vorrei solamente invitare questo ascoltatore sì. E anche altri, magari documentarsi un po', perché per esempio se si fanno un giro a Ischia troveranno una situazione di abusivismo pazzesco. C'è il massimo tasso di abusivismo di case abusive costruite a Ischia. Ischia è ormai un pezzo di terra, una bellissima isola, dove ci sono, è tappezzata solo di case abusive, e queste case abusive non le hanno costruite questi poveracci, questi profughi che noi abbiamo accolto, come fa qualunque paese civile, ma sono state costruite da altre persone di cui è facile indovinare la in spregio la a tutte le regole, tutte. Io sono d'accordo. Beh, esatto. Se parliamo di arroganza, allora dobbiamo guardare anche all'arroganza degli italiani che per esempio si fanno la villa abusiva. Esatto, sì, infatti non si concludo poi, sì. Non si tratta solo di case fatte in qualche maniera giusto per avere un tetto, sto parlando di ville faraoniche sì. Fatte fronte mare con le colonne romane e la piscina, e non sono state fatte da questi poveracci che dovremmo aiutare e che rappresentano per noi una risorsa, ma da altre persone di cui è facile indovinare la nazionalità. La ringrazio tanto. E io ringrazio lei Agostino. Quando ce vo'. Sono d'accordo, perché ci sono gli arroganti da tutte le parti, ci sono tra gli stranieri, ci sono tra gli italiani, no? E quindi mi piacerebbe che qualcuno fosse razzista nei confronti, per esempio, degli arroganti, tutti, no? Cioè, io non vorrei che vorrei togliere la cittadinanza agli arroganti, tutti, compresi gli italiani, però. Non dobbiamo cadere vittima dei pregiudizi che dimostrano una profonda arretratezza mentale e un'abissale ignoranza. Grazie di tutto. Grazie a te, grazie a te. Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori di questo intervento che va controcorrente rispetto agli altri sul tema degli stranieri e della presunta arroganza nel momento in cui si pretende la casa, per esempio, no? Il diritto alla casa per un profugo. Marco da Milano, vai. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Prima di tutto devo dire che sono molto commosso dall'intervento di chi mi ha preceduto. Veramente questo buonismo sta diventando pesante. Perché buonismo? Beh, basta sentire. Non era buonista questo ascoltatore qua. Non era buonista, perché ce l'aveva con chi fa la casa abusiva a Ischia. Non era buonista. Sono delle situazioni completamente diverse, contestualizzate in periodi storici completamente diverse. E quindi? Allora vorrei ricordare grosso modo così a questa persona che mi ha preceduto. L'abusivo non è arrogante. L'abusivo non è arrogante. L'abusivismo di Ischia è di necessità. Agli anni 50, sì. Oppure 60. Detto questo, no, non è vero, perché la casa crollata a casa Micciola, dove è stato salvato Ciro, gli abusi sono stati fatti recentemente. Ho detto, gran parte delle situazioni derivano da epoche precedenti. No, io le sto dicendo che non tutte, e quindi bisogna fare conti anche con quelle. Infatti io dico gran parte. E le altre quindi non ti interessano? No, certo che mi interessa, però sono delle situazioni completamente diverse che non c'entrano nulla con i cosiddetti richiedenti. No, io ti chiedo se quella è arroganza oppure no, cioè chi si fa la casa abusiva è arrogante oppure no. Siccome si parla del tema dell'arroganza, questo ascoltatore dice ok, però allora se parliamo di questo dobbiamo vedere anche gli italiani quando sono arroganti. No, allora secondo me è legittimo questo, c'entra no? c'entra poco. Qui c'entrano dei comportamenti illegali e quindi criminali. Cioè, usciamo da questo modo di parlare da preti, lei parli da giornalista e chi ma cosa c'entra il prete? Ma cosa c'entra il prete? Ma questo buonismo, detto ma questo, quale però, buonismo? Quale buonismo? È un buonismo l'ascoltatore ha fatto un parallelismo momento. E io, siccome lei l'ha citato e ha detto questo buonismo, io le chiedo cosa c'entra il buonismo con un ascoltatore che parla dell'arroganza degli italiani. Allora io le chiedo, quella è arroganza o è meno arroganza di quella degli stranieri che buttano le bombe del gas? E io le dico che sono due paragoni che non ci azzeccano niente, che non c'entrano nulla, perché non è che tu devi essere tollerante perché c'è chi è più porco di te. La legge del porco non vale, cioè non vale dire porco io e quindi porco no, tu. No, io dico di essere intollerante anche illegali. Cioè l'ascoltatore dice bisognerebbe essere intolleranti con l'arroganza tutta, anche quella degli italiani che per esempio fanno gli abusi. Io le chiedo, lei è d'accordo? Lei è d'accordo? Oppure un italiano può essere più arrogante di uno straniero? Non sono per niente d'accordo, e le dico anche brevissimamente questo, sì. Che io ho vissuto qualche anno in un paese che si chiama Kentucky, e nel Kentucky se uno si fosse permesso di buttare una bombola del gas sulla testa di un poliziotto, sì, credo che gli avrebbero sparato in testa i poliziotti. Sì. Detto questo, noi invece che viviamo in un paese che in larga parte è comunque governato da comportamenti illegali e criminali, vedi l'abusivismo, esattamente, e allora lei è d'accordo con me. Tendiamo a paragonare, no, non sono d'accordo con lei, tendiamo a paragonare detto le cose e quindi a dire porci quelli di Ischia e quindi porci anche questi e chi se ne frega. No, la conclusione può essere questa, ma può essere un'altra. Io le ho chiesto solo un confronto tra le due cose. Lo ha appena detto che è la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Detto questo, comunque, le voglio dire quanto segue. Allora, io sono stato in un centro dove ci sono questi cosiddetti migranti. Per la verità, si tratta di immigrati irregolari e di immigrati clandestini. Io in quel centro, sito a Brescia, in pieno centro storico, in via Moretto, su 150 ospiti maschi e 50 ospiti donne, non ho trovato un solo profugo di guerra. Allora, ho letto dentro questo centro la lista degli ospiti, degli incliti ospiti. C'era gente del Bangladesh, c'è gente del Bangladesh. C'è gente del Marocco, c'è gente della Tunisia, gente del Niger, va bene? Gente di paesi che non sono in guerra. Allora, la cosa beh, che sul mi ha stupito, Niger però, non ci metterei la mano sul fuoco, che non sia un paese da cui possano provenire dei profughi. Le Marocco guerre è diverso. Sono in quasi tutta l'Africa, ma questo non significa no, sul che Marocco noi ha ragione abbiamo lei. Dovere d'ospitalità nei confronti di tutti quei paesi in guerra, va bene? Mm. Allora, siccome ci era stato raccontato che dovevamo essere generosi con i profughi, io le sto dicendo che in questo centro, che è ubicato a no, due io ho solo contestato Brescia, Marco, ho solo contestato che lei mettesse sullo stesso piano il Niger col Marocco. Il Marocco è un paese tranquillo, sono d'accordo con lei, il Niger no, questo volevo solo dire. Benissimo, no. Allora, detto questo, su 150 ospiti maschi e 50 ospiti donne, gran parte dei quali con un'età compresa dai 20 ai 35 anni, va bene, non ce n'era uno che frequentasse la scuola dove insegnavano l'italiano, e non ce n'era uno che fosse interessato a collaborare con il personale di servizio. La cosa che mi ha colpito è che per ogni turno c'erano quattro cittadini bresciani assunti da una cooperativa che fa parte dei frati, va bene? Mm. E questi qua dovevano lavorare per ogni turno rassettando, sì, pulendo le camere, camere da due posti letto, con televisore, occupandosi delle pulizie, occupandosi della mensa. Le posso chiedere una cosa, Marco? Che cosa, cioè, come ha fatto lei a entrare in questo centro? Ci ha lavorato? Non ho capito. No, io abito lì vicino, ero molto curioso e sono entrato. E le hanno fatto fare un giro. E mi hanno fatto fare un giro. Allora, la cosa curiosa è che, come le ripeto, c'erano quattro persone pagate con i voucher, e lei sa quanto prendono queste persone. E c'erano questi ragazzotti che ciondolavano, non facevano niente, si preoccupavano soltanto del giorno previsto per i pocket money, va bene? E le persone che vivono in quel centro, tra l'altro, possono uscire da quel centro quando gli pare, possono dormire perfino tre volte, sì, alla settimana fuori dal centro, vabbè, con un'autocertificazione, il tutto senza che passi una pattuglia a controllare un centro che qualche mese fa è comunque bruciato. Detto questa cosa, quello che mi indigna profondamente è che si fanno passare per profughi coloro che invece sono semplicemente dei clandestini, gente che non collabora, che non coopera, che non fa nulla, va bene, e che si occupa semplicemente degli affari propri. Va bene, lei, ho capito. Mi permetta solo, grazie Marco, mi permetto solo di dubitare che, avendo visitato un centro, lei possa avere un'idea su tutta la situazione italiana. Questo mi permetto di dubitarlo, però il suo racconto ci sta, ci crediamo. Non è diverso da quello che abbiamo visto, purtroppo, in altre, anche in altre situazioni, bisogna dirlo. Allora, andiamo con il traffico, poi torniamo. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una lite fa scoppiare un vero e proprio assalto a un centro migranti di Roma nel quartiere Tiburtino Terzo. Ferito un eritreo, dopo gli sgomberi si cercano soluzioni all'emergenza abitativa. Anche per l'agenzia Moody's la ripresa in Italia si consolida, la crescita sarà superiore al previsto. Gentiloni, impegno perché la fiducia nell'economia porti più lavoro. Stretta sulle malattie dei dipendenti pubblici, da settembre sarà l'INPS a fare le visite fiscali e i medici potranno bussare alla porta anche più di una volta al giorno. Dopo il lancio del missile nel Mar del Giappone, l'ONU prova a fermare Kim Jong-un, che però minaccia: il prossimo obiettivo è Guam. Trump: non è il tempo del dialogo. Rimini, la transessuale peruviana, riconosce dalle immagini della polizia scientifica i quattro responsabili dello stupro. Stamane incontro tra magistrati polacchi e italiani. Non si attenua l'emergenza incendi, spesso alimentati da inneschi dolosi. Il TG3 nel Parco Nazionale della Maiella, che brucia da giorni e dove i cittadini si organizzano per fermare i piromani. I can't believe it, I love the way like this. I can't believe it, I love the way like this. Oh, there's plenty more. Intanto voglio ringraziare Pino per la sua mail che ci ha appena mandato, e non vi dico perché, ma lui sa perché. È con noi Elisa Serafini, assessora alla cultura del Comune di Genova, benvenuta. Buongiorno. Allora, buonasera. Senta, qua il Comune di Genova non è il primo che fa questa cosa, cioè di cercare di regolamentare un po' la questione degli artisti di strada. Voi avete trovato un modo, diciamo, non è ancora stato approvato, però c'è una proposta, un patentino con anche tanto di badge, di cartellino da timbrare, no? con degli orari. Però facciamo un passo indietro, no? Perché anche a Genova c'è bisogno di regolamentare l'attività degli artisti di strada? Allora, è nato tutto da, diciamo, da alcune criticità che si sono manifestate con i residenti del centro storico di Genova, che appunto hanno manifestato una certa insofferenza rispetto ad alcuni artisti di strada, che poi in realtà sono veramente una quota molto minoritaria, che però appunto avevano violato il regolamento che prevede una certa durata, diciamo, dell'esibizione, e in più insomma veniva riscontrata la scarsa qualità di alcune esibizioni, che però saranno nell'ordine del 10%. Quindi c'è qualcuno, diciamo, che è scarso, che suona male. Ma alcuni addirittura fingono di suonare. Fingono di suonare? In che senso? Qualcuno, ce n'è un paio. Ah, mettono sotto la musica e poi fanno così, sì, fanno il verso. Se uno sa suonare, io sono il pianoforte, lo vediamo che suonano, magari ripetono un accordo, ma in realtà poi c'è una base già preimpostata, però insomma quindi la questa qualità è una truffa, magari è una truffa ai danni del popolo, insomma, dell'ascoltatore. Sì. Non è possibile. Comunque è nata da questa esigenza. E cosa prevede allora questo regolamento? Allora, abbiamo avviato un dialogo con gli artisti di strada, proprio con loro, e lunedì faremo un ulteriore incontro, però diciamo ci stiamo orientando verso un badge, ma in realtà un badge che possano indossare gli artisti, anche per dimostrare che sono che hanno una certa, diciamo, dignità musicale, che hanno un legame con il comune e che quindi sono in qualche modo parte del nostro patrimonio culturale, che secondo me è una cosa molto importante anche però, utile scusi, per loro. Già qua mi viene qualche domanda da fare. Patrimonio culturale genovese, cioè un senegalese con i bonghi, sembra che voglio sempre citare gli stranieri, ma anche un norvegese che suona la batteria. Ma Genova è molto multiculturale, il centro storico di Genova è proprio quello il fatto, Genova è multiculturale al massimo, soprattutto nel centro storico, in realtà è la sua caratteristica anche di autenticità, quindi quello che è questa proposta del badge in realtà è arrivata da un artista di strada che rappresenta appunto tutto questo gruppo di artisti. E poi invece un'altra esigenza invece è arrivata per regolamentare gli orari di esibizione e la durata delle performance, perché anche su questo, diciamo, la problematica è stata riscontrata dai residenti che si trovavano magari per diverse ore la stessa esibizione, magari anche in che orari che viene a noia dopo un po', uno si sta sempre tra l'altro, quindi, insomma, ci sono sensibilità diverse. Perché una delle questioni, è vero anche questo, assessore, che c'è anche la questione della lobby nelle zone centrali della città ci sono dei punti particolarmente ambiti, e per esempio Milano, la mia città, che ha cercato anche lei di regolamentare un po' come state facendo voi questa questione, era anche per dire, uno si prenota al posto e quindi non può essere taglieggiato da nessuno non gli può nessuno impedire di farlo. È anche questo, no? Per dare una possibilità a tutti. Esatto, anche questo, quindi la possibilità, ovviamente rispetto a Milano ci sono molti meno artisti in realtà a Genova, però c'è comunque c'è meno affollamento, però è vero che ci sono delle vie che sono ad alta densità turistica e che ovviamente sono molto ambite, e in questo momento non c'è un modo per prenotare la strada, l'artista si reca sul posto, se c'è l'altro artista non può suonare, però su questo loro più o meno si sono sempre autoregolamentati, sì. Però è vero che hanno comunque non si è mai in realtà stabilito un modo per strutturare e valorizzare anche comunque queste esibizioni. Ecco, ma la domanda che tutti si fanno: chi valuterà questi artisti se sono scarsi o non scarsi? Perché poi si rischia che attraverso quello poi passi, che ne so, che va l'amico dell'assessore, oppure che va quello che sta simpatico a me, che non sta simpatico a te, oppure quello che piace, che suona un certo tipo di musica. Questa esigenza è stata espressa da una parte della giunta che ovviamente ha varie sensibilità. Io sono una liberale, quindi per me è il mercato che decide la bravura di un artista. Però insomma capisco che i residenti su questo tema invece non avevano proprio la stessa idea, e pensavamo di proporre una commissione in cui all'interno ci fosse un rappresentante degli artisti di strada, un rappresentante del conservatorio, un rappresentante del mondo dei teatri, che quindi non prevedesse una selezione sul titolo di studio per esempio, ma semplicemente una veramente una qualità dell'esibizione da consentire che appunto fosse apprezzato dai presenti in modo insindacabile, ecco. Quindi noi pensavamo magari semplicemente anche a un video, nessuno deve fare un'audizione come succede in Spagna, X Factor, per esempio, perché qualche giornale ha titolato l'X Factor degli artisti di strada. Ah beh, perché era un bel titolo comunque. In realtà noi non abbiamo mai parlato di talent, sì, però sì, effettivamente sì, in alcuni paesi lo fanno. Io credo che se vogliamo veramente utilizzare questa forma di tra virgolette commissione mista per selezionare o comunque per valorizzare determinati artisti, penso che possiamo usare appunto una commissione con persone da un mondo variegato che però valutano l'esibizione anche soltanto sulla base comunque di un video, non per forza di una performance fisica, anche perché sarebbe molto difficile poi per esempio valutare chi viene da fuori. Okay. Però in tutto il mondo è strutturato comunque in molte città, a Melbourne, a Londra, ci sono tante. Come si fa però, scusi, a coniugare questo bisogno, diciamo, di dare una regola, di dare una trasparenza, di dare anche una, cioè, di venire incontro anche alle esigenze dei residenti e dei commercianti, però con il fatto proprio classico degli artisti di strada, cioè la spontaneità, no? Il fatto che si basa molto su questa improvvisazione, cioè mi metto nei panni di un artista di strada che arriva a Genova, straniero, che non sa nulla di questo regolamento, si mette a suonare sullo stesso giornino all'angolo della strada, cosa fa? Rischia una multa se non si è iscritto? Allora, in molte città del mondo è così, nel senso che effettivamente se un artista di strada arriva e non si è registrato prende la multa, è vero, a Londra, a Parigi, ma anche in altre città anche più piccole. Quindi molti busker, che sono appunto gli artisti di strada, in realtà sono ben informati rispetto a queste normative. Noi cercheremo di proporla come uno strumento che ovviamente viene incontro alle esigenze dei residenti della città, ma è anche modo per valorizzare le loro esibizioni. Io ho proposto di fare per esempio un festival dell'arte di strada nella prossima primavera o estate, perché la città di Genova secondo me è il palcoscenico si adatta. Quindi è uno scambio comunque di sensibilità, di esigenze che però cercheremo di rendere produttivo, ecco. Va bene, grazie Assessore Serafini, buona serata, bocca al lupo con la musica Genova. Solimano da Verona per chiudere stasera, vai. Buonasera, io volevo tornare sul discorso del prosecco, sì, visto che qui se ne fa un largo uso. E, cioè, qui da Verona, sì, pensavo adesso lo eri tu, sì. all'ultimo Vinitaly, ricordo che c'è stata un'esplosione della produzione di vino in Inghilterra con le bollicine, sì, e non solo in Inghilterra, quindi ho letto tanto questa cosa, questa pubblicazione del Guardian, come un tentativo di sollevare le sorti e amplificare le sorti delle bollicine inglesi, che ormai, come le bollicine di tutto il mondo, stanno diventando il vino di maggior consumo. Ecco. Va bene, devo chiudere, grazie. Io volevo solo solidarietà, sono felicissimo di aver sentito quell'ascoltatore che ha parlato dell'arroganza. Va bene, grazie Solimano, sì, ma sì, devo chiudere perché non abbiamo più tempo, scusami, ci risentiamo domani 18:20 con Si può fare. Ciao a tutti, un ringraziamento ad Alessandro Longoni, come sempre Riccardo Poli, Andrea Spenuso in redazione, Roberta Frisani in regia. Ciao, buonasera.